Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Ricominciamo una nuova settimana. Come sapete, per ridare un nuovo stimolo al settore edile italiano, il governo ha prorogato ed ampliato il pacchetto dei bonus fiscali relativi alla ristrutturazione e al miglioramento energetico degli edifici. Da pochi giorni è stato precisato che anche per l'installazione di elettrodomestici ed impianti di climatizzazione si può beneficiare degli sconti fiscali per i lavori di ammodernamento della propria casa. Quindi caldaie, pompe di calore rientrano nel cosiddetto ecobonus, aumentato al 65% e fruibile fino al 31 dicembre di quest'anno, mentre ai grandi elettrodomestici spetterà lo stesso trattamento già reso possibile per gli arredi, per i mobili, detrazioni al 50%, ma solo se l'acquisto è finalizzato all'arredo di un immobile a sua volta oggetto di ristrutturazione e che quindi fruisce della stessa agevolazione fiscale. Salva Danaio questa mattina torna a fare il punto sul funzionamento di tutti questi incentivi, rispondendo come sempre alle domande degli ascoltatori all'800 24 00 24. Come sapete bene, ci potete anche scrivere al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Avete intenzione di fruire dei bonus per il miglioramento energetico, la ristrutturazione o l'arredamento di casa? Quali sono i vostri dubbi? Ne risponderemo con il nostro esperto in materia fiscale del Sole 24 Ore, Luca De Stefani. Buongiorno, bentornato. Grazie, buongiorno. E buongiorno anche a Davide Rossi, direttore generale dell'AIRES, bentornato anche a lei. Buongiorno, grazie. L'AIRES è l'associazione italiana dei rivenditori di elettrodomestici specializzati, sì. Quindi i retailer, per dirla con questa R che è infilata appunto all'interno di questo acronimo. E quindi, insomma, se volete sapere tutto ciò che attiene agli elettrodomestici, il dottor Rossi stamattina è a nostra e a vostra disposizione. Prima di tutto questo, diamo un po' un'occhiata a quello che succede alla borsa. È una giornata positiva stamattina sui mercati finanziari, per la verità c'era stata una buona tendenza anche settimana scorsa, poi venerdì uno scivolone dopo il dato sulla disoccupazione americana che era stato piuttosto buono. Paradossalmente il mercato è scivolato su un dato positivo, perché? Perché a questo punto la banca centrale americana, secondo le sue promesse, visto che la disoccupazione sta scendendo negli Stati Uniti, sarà costretta a ridurre il piano di stimolo monetario che è in corso da diverso tempo negli Stati Uniti, e allora questa prospettiva di mancanza di liquidità al mercato, di riduzione progressiva appunto al mercato, non piace. In realtà poi oggi ci ha ripensato, l'Europa ha ripreso ad andare molto bene con Francoforte che sta salendo del 2,31%, pensate che stamattina in Germania sono stati collocati titoli di Stato a 6 mesi per quasi 4 miliardi di euro con un tasso di interesse che è ritornato negativo. Parigi sale dell'1,94%, Londra in rialzo di un punto, Milano più 1,38% sul FTSE MIB. I titoli che vanno meglio: Azimut più 4 punti e Mediolanum più 3,72%. Per Mediolanum ci sono delle indicazioni positive sulla raccolta netta dei fondi di investimento, appunto notizie, indicazioni che sono state fornite venerdì scorso dal vicepresidente del gruppo Massimo Doris. Oggi verranno diffusi i dati ufficiali, ma la raccolta dei primi 6 mesi dell'anno è stata, secondo appunto quanto preannunciato, di circa 2,5 miliardi di euro. Quindi in sostanza il gruppo ha già superato il livello record dell'anno scorso. E poi abbiamo Mediaset più 2,70, Luxottica più 2,63, Fiat più 2,60, Diasorin più 2,49, Buzzi Unicem più 2,44%, quindi una giornata decisamente positiva. Adesso torna in negativo Parmalat, meno 0,08%, è l'unico titolo negativo a Piazza Affari in questo momento. L'euro sul dollaro a 1,2858, lasciamo la borsa. Il tema di oggi: bonus fiscali anche per elettrodomestici e caldaie. Dare un aiuto a chi vuole ammodernare la propria abitazione e, si spera, anche uno stimolo all'economia. È con queste motivazioni che il governo sta investendo nei bonus fiscali. Agevolazioni per i lavori di ristrutturazione degli immobili e non solo. Anche gli acquisti di mobili, elettrodomestici e impianti di climatizzazione potranno beneficiare di sconti non indifferenti. Il cosiddetto ecobonus per l'efficienza energetica, la detrazione IRPEF per chi effettua lavori di miglioramento della propria abitazione, è aumentato, a partire dal 6 giugno, passando dal 55 al 65%, ed è stato anche prorogato. L'incentivo sarà infatti valido fino al 31 dicembre 2013 per i privati, mentre i condomini potranno usufruirne fino al 30 giugno 2014. È inoltre stato confermato, notizia di questi ultimi giorni, che rientra in questo tipo di spese anche la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, nel caso in cui la scelta ricada su sistemi ad alta efficienza. Per l'entrata in vigore definitiva di quest'ultima possibilità, però, bisogna aspettare la conversione in legge del decreto del mese scorso. Non va dimenticato che c'è anche un'altra proroga, quella per il bonus dedicato ai lavori di ristrutturazione ordinaria, come l'apertura di porte e finestre o il rifacimento di tetti e pavimenti. Dallo storico 36%, questi lavori erano recentemente passati a godere di uno sconto del 50%, ora rinnovato per 6 mesi, e quindi fino alla fine del 2013. In questo caso resta valido il tetto di spesa massima su cui può essere applicata la detrazione, fissato a 96.000 euro, e a giugno era arrivata una novità. È compreso anche l'acquisto di mobili, a patto che siano destinati ad arredare gli edifici ristrutturati. Sempre il 50%, quindi, su una spesa massima di 10.000 euro per unità abitativa. Va registrato un aggiornamento anche in questo caso. Da qualche giorno, in questi 10.000 euro possono rientrare anche gli elettrodomestici, se rientrano in precise categorie. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande se volete intervenire in diretta. In alternativa potete scriverci i vostri quesiti al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Una prima domanda, Luca De Stefani, a lei, perché io in realtà ho fatto un sorriso su questo quesito, però è del tutto pertinente e legittimo da parte di questo ascoltatore, che chiede: per avere gli incentivi sugli infissi e quindi riqualificare dal punto di vista energetico l'abitazione, devo rifarli in tutte le stanze della casa o posso cambiare solo quelli effettivamente rovinati? Mi pare che dei limiti di questo tipo, i provvedimenti, anche tutti quelli degli ultimi anni, non ne impongano, giusto? No, certo. Per quanto riguarda gli infissi, si possono sostituire anche singolarmente, anche se ci sono 3 infissi in una stanza se ne può sostituire solamente uno, perché vale la trasmittanza energetica del singolo infisso. In questo caso quindi è possibile beneficiare, certo, della detrazione fiscale del 55%, che dal 6 giugno di quest'anno fino a fine anno è passata al 65%. Ecco, proprio data come l'aumento di questa percentuale, di questa soglia, forse all'ascoltatore vale la pena ripensare un po' l'intervento e non rinviare anche quello degli infissi, che teoricamente sono un po' meno rovinati e non avrebbero bisogno di essere sostituiti, ma forse questo bonus è destinato a non esserci mai più in futuro, De Stefani, per cui forse vale la pena approfittare, perché se lo Stato ti restituisce il 65% è una bella cifra. Sì, è molto un risparmio molto importante. Questo bonus appunto scade alla fine di quest'anno, a meno che non venga prorogato. Se non verrà prorogato, in questo caso si avrà la possibilità anche per il futuro di avere la detrazione classica della ristrutturazione edilizia, che è del 36%, che fino a fine di quest'anno è stata aumentata al 50%. Allora, Davide Rossi, direttore generale di Aires, il nostro Carmelo in regia stamattina deve ricomprare la lavastoviglie, perché sa, da quando è cresciuta famiglia là dentro non si fa che lavare, vanno a pieno regime lavatrice appunto e lavapiatti. Però non credo che debba ristrutturare la sua abitazione, di conseguenza non credo che l'incentivo lo possa avere. Purtroppo no, gli incentivi riguardano soltanto coloro che hanno già iniziato con una ristrutturazione edilizia, quindi no, in questo caso. In questo caso no, caro Carmelo, devi rimettere mano anche alle pareti di casa se vuoi ottenere questo incentivo. Detto questo, è un provvedimento che voi avete voluto fortemente, anche se chiaramente magari ci fosse stato anche quello che dava l'opportunità di avere l'incentivo senza legarlo appunto alla ristrutturazione dell'abitazione, però è pur questo appunto è importante, perché il settore del bianco in Italia soffre da un bel po' di tempo. Beh sì, i numeri sono sotto gli occhi di tutti, li abbiamo visti, sono tantissime difficoltà in tutti i settori, però non è soltanto, devo dire la verità, non abbiamo voluto il provvedimento, non abbiamo fatto un'attività così impegnativa, abbiamo soltanto ritenuto utile sottolineare che intanto c'era una coerenza con il dettato normativo comunitario, in quanto la direttiva del 2010 prevedeva un aiuto per coloro che intervenivano in opere di ristrutturazione anche dal punto di vista energetico, e quindi sicuramente una migliore performance energetica degli elettrodomestici andava in questa direzione, quindi ci sembrava assolutamente coerente che anche l'elettrodomestico ad alto valore dal punto di vista del recupero energetico potesse far parte del provvedimento. Ecco, dal punto di vista normativo mancano ancora chiaramente delle precisazioni sulle modalità di ottenimento del bonus per quello che riguarda gli elettrodomestici, ma le chiedo se già qualche movimento l'avete visto. Secondo lei c'è già stato qualche aumento di ordinativi per questo settore da parte del retail o ancora è troppo presto? No, onestamente abbiamo imparato a aspettare i provvedimenti fin tanto che arrivano definitivamente ad approvazione conclusiva. Quindi stiamo seguendo con grande attenzione quello che succederà alla Camera a partire dalla prossima settimana, o già da questa ci saranno dei primi interventi. Abbiamo seguito con grande attenzione quanto avveniva al Senato. Purtroppo molto spesso succede che quando troppe voci si fanno sentire su un provvedimento si rischia di uscire con dei testi un po' pasticciati, lo vediamo purtroppo da troppi anni nel nostro modo di scrivere le leggi, e quindi abbiamo voluto seguirla non tanto per portare, come dire, dei benefici ulteriori al nostro settore. Non era nostra intenzione essere prepotenti in questo campo, assolutamente, grande rispetto tra l'altro per gli altri settori che sono coinvolti. Però ci è sembrato giusto sottolineare che qualche definizione rischiava di essere confusa e che anche dal punto di vista poi delle norme applicative sarà importante scrivere delle regole che siano il massimo della semplicità e della chiarezza. Un intervento che dovrà sicuramente essere fatto, se no rischia di vanificare la portata appunto del provvedimento, il tema del pagamento. Come sappiamo, tutti i benefici fiscali, appunto tutti gli incentivi fiscali legati alla ristrutturazione dell'abitazione, Luca De Stefani, magari lo ricordo intanto con lei, poi rifaccio puntualizzare a Davide Rossi, appunto l'ottenimento di questi incentivi è legato al fatto di pagare gli interventi che si fanno con il bonifico, e tra l'altro la norma lo prevederebbe anche per gli elettrodomestici, ma chiaramente se uno va fa un piccolo lavoro di ristrutturazione e vuole metterci un frigorifero, magari va da un rivenditore e diciamo il metodo di pagamento più tradizionale può essere un assegno piuttosto che la carta di credito o il bancomat. Lei che ne pensa, De Stefani? Allora, per quanto riguarda la normativa sulle ristrutturazioni edilizie, la norma prevede specificatamente il bonifico parlante. Per la normativa relativa ai mobili, la norma non prevede assolutamente il pagamento tramite bonifico bancario. La precedente agevolazione sui mobili del 2009 prevedeva il pagamento con bonifico bancario. Oggi la normativa attuale è molto diversa rispetto a quella precedente e nella norma non c'è scritto nessun metodo di pagamento. Però... Quindi, sì. Lo so, no, però ecco, l'Agenzia delle Entrate è uscita la settimana scorsa, il 4 luglio, con un comunicato stampa in cui, senza precisare alcuna motivazione giuridica, ha previsto il pagamento. Quindi dobbiamo, con bonifico bancario, quindi dobbiamo adeguarci. Noi nel giornale avevamo già scritto, avevamo già consigliato addirittura il 7 di giugno di fare i pagamenti con bonifico bancario, e allora, 3 giorni dopo l'entrata in vigore della legge, anzi il giorno dopo l'entrata in vigore della legge, avevamo chiesto lumi immediati all'Agenzia delle Entrate su questo tema, che era un tema che avevamo subito capito che era un tema molto spinoso. L'Agenzia delle Entrate, con un semplice comunicato stampa, senza nessun tipo di giustificazione, ha previsto il bonifico bancario. È una insomma, mossa veramente ingiustificata, perché un mese dopo l'entrata in vigore della legge, con aziende e consumatori che si sono già attrezzati e hanno già effettuato i diversi pagamenti, insomma, si preferiva molta più celerità da parte dell'Agenzia delle Entrate. Allora, Davide Rossi, intanto che sposta il telefono, perché avete sentito avevamo qualche piccola interferenza che ogni tanto capita, effettivamente questo è un limite rilevante. Sappiamo per certo che l'Agenzia delle Entrate ci ascolta, quindi chissà che non prendano anche questi suggerimenti che stamattina arrivano. È un fattore di, immagino, preoccupazione per voi. Assolutamente, noi ci siamo visti con urgenza già il giorno successivo all'incontro. Eravamo in Federdistribuzione, che è la federazione della quale noi facciamo parte. Ci siamo visti anche con il nostro presidente, che tra l'altro è l'amministratore delegato di un grosso gruppo molto radicato in centro Italia, dove la gente è molto attenta a tutte queste normative, aveva già ricevuto richieste in punto vendita proprio su questo tema. E probabilmente stiamo provando a proporre qualche altra soluzione in cui saranno i punti vendita a farsi carico di tracciare, di dare delle informazioni. Noi siamo anche disponibili a dare giorno per giorno informazioni sulle transazioni che abbiamo fatto, in modo tale, anzi, potrebbe anche essere una soluzione utile dal punto di vista del controllo fiscale per evitare abusi, per avere un immediato contatore di quanto sta accadendo sul territorio. Noi siamo prontissimi a fare tutto questo, stiamo mettendo a punto 2 o 3 soluzioni alternative che sottoporremo all'Agenzia delle Entrate, e speriamo anche che dal punto di vista parlamentare alla Camera ci sia qualcheduno, magari potrebbe essere ad esempio un ordine del giorno che il governo potrebbe accettare, in cui si raccomanda di rendere il più semplice possibile questa misura, perché fare una norma e poi renderla difficile da applicare è un modo molto molto sbagliato di procedere. Dovete fare attività di lobby molto intensa, Rossi, chiamiamola così, come sì, Aires, lobby. Diciamo che siamo degli umili prestatori d'opera. D'altronde comunque è un'attività assolutamente nobile, perché la fanno in molti. Senta, le volevo leggere questa domanda di questa ascolta ascoltatore che dice: devo cambiare la lavatrice. Adesso, come dire, sfiora il tema di questa mattina, ma mi sembra interessante. La voglio made in Italy. Come faccio a sapere quali marche sono italiane? Andiamo a vedere sul sito di Aires intanto. Ma allora, questa cosa mi è un po' difficile ovviamente da affrontare perché parliamo dei fornitori. Esatto, e non è certamente che si possono sponsorizzare alcuni piuttosto che altri, però quello credo che posso dire ci sono che i professionisti nei punti vendita apposto per questo noi motivo. Noi abbiamo veramente una caratteristica, secondo me, importante, che mi piace tutte le volte sottolineare per i rivenditori specializzati di elettrodomestici. I ragazzi che sono in punto vendita da noi, a parte che sono molto bravi e competenti e molto giovani, siamo uno dei settori che ha più occupazione giovanile, più del attorno al 25%, poi varia un po' da catena a catena, da regione a regione. Continuate ad assumere, mi raccomando, più del 25% a meno di 29 anni. Quindi se ci sono delle persone un po' più grandi è come se parlassero col figlio, se ci sono dei coetanei che stanno per magari sposarsi, fanno la lista nozze, parlano con un amico. Certo. Quindi i nostri punti di vendita sono a disposizione e naturalmente, ecco, non lo posso fare io oggi per radio, però certamente in punto vendita, se il negoziante, se il consumatore chiede qual è Made in Italy, i ragazzi in negozio glielo sanno dire. Accidenti. Allora, cominciamo a sentire qualche domanda di qualche ascoltatore sui temi di stamattina, così almeno entriamo immediatamente nel merito delle questioni concrete e vive che state affrontando, anche visto che in molti stanno facendo i lavori, e in molti, tra l'altro, De Stefano, lo ricordiamo, stava succedendo per la verità anche al mio condominio, perché stiamo rifacendo la facciata esterna e abbiamo deliberato i lavori molto rapidamente perché volevamo ottenere appunto il 55% legato a determinati appunto lavori, e temevamo appunto a casa nostra che questo incentivo terminasse in giugno. Invece non solo è stato prorogato, ma è addirittura salito, e adesso l'impresa se la sta prendendo un po' più comoda, situazione alla quale immagino si possano trovare in molti, giusto? Sì, Stefani, corretto, certo, perché per quanto riguarda I condomini avranno più tempo per usufruire delle detrazioni, sì. È possibile proseguire i lavori fino alla fine di giugno del prossimo anno. Questa è una modifica della normativa, appunto, del decreto 63 del 2013, che ha previsto la scadenza del 65% per quanto riguarda le parti comuni dei condomini fino a fine giugno del prossimo anno. Allora, andiamo agli ascoltatori, cominciando con Lucia dalla provincia di Pavia. Lucia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno, grazie. Ma ecco, io mi trovo in questa situazione, che abbiamo iniziato i lavori alla fine di maggio, pensando di terminarli entro la fine di giugno. Così non è stato, siamo ancora in ballo, come si suol dire. Lucia, che cosa lavori alla sua abitazione? I lavori sono relativi alla sua abitazione? Sì, il mio marito, insomma. La prima rata è stata pagata ai primi di giugno, mi sembra. Sì. Mentre la seconda è stata pagata pochi giorni fa, già in luglio. Volevamo sapere, dal punto di vista così delle tasse, quale rimborso ci spetterà, se del 55, del 65, se sarà variato o sarà tutto del 55 o tutto del 65. Una classica situazione a cavallo fra le normative. Luca De Stefani, intanto Lucia rimanga in attesa qualora il dottor De Stefani avesse bisogno di ulteriori chiarimenti, ma credo che in realtà ci ha già dato i termini sufficienti, Lucia, perché vale appunto il principio di cassa, quindi vale il momento in cui si è pagato. Per quanto riguarda tutte le detrazioni fiscali per le persone fisiche e quindi anche per il risparmio energetico, vale il principio di incassa, e quindi per quanto riguarda gli acconti pagati prima del 6 giugno di quest'anno, la detrazione IRPEF è del 55%. Per quelli fatti successivi, anche riferiti agli stessi lavori, sì, c'è la detrazione del 65%. Tra l'altro Lucia ha detto che per la verità ha fatto il primo pagamento i primi di giugno, magari chissà mai che non sia stato il 7, certo, e quindi potrebbe vale la data di bonifico, non quella di valuta. Certo. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buona giornata da Deborah Rosciani. Nuovi bonus per fiscali per la ristrutturazione dell'abitazione, per la riqualificazione energetica della casa, ma in più anche per l'acquisto del nuovo arredamento e di nuovi elettrodomestici. Un pacchetto molto complesso soprattutto perché appunto queste nuove detrazioni si accavallano con quelle che erano già preesistenti, per cui fate molta attenzione. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Nel frattempo, mentre eravamo in pausa, il buon Luca De Stefano Stefani mi ha segnalato, per i grandi elettrodomestici che hanno un incentivo del 50% e condizionatori con pompa di calore che lo hanno al 65%, si deve però attendere la conversione di legge, De Stefani, giusto? Quindi aspettiamo un po' magari prima di andare a fare l'acquistone. Esatto. Allora, per quanto riguarda i mobili, partiamo dall'ultimo decreto, dall'ultima novità. L'acquisto di mobili è agevolato dal 6 giugno di quest'anno, in quanto il decreto è entrato in vigore in quella data. Ora, in sede di conversione, il Parlamento ha 60 giorni di tempo per convertire in legge il decreto, quindi in sede di conversione è stato aggiunto l'incentivo ai grandi elettrodomestici. Però questa agevolazione entrerà in vigore solamente il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, appunto, quindi si presume una decina di giorni. Allora, ci sono molti ascoltatori, De Stefani, rimango con lei perché anche questi sono aspetti, diciamo così, di natura fiscale, chiedono se le agevolazioni valgono solo per la prima casa, se valgono anche per la seconda. Non c'è nessun tipo di distinzione in merito a questo? No. Non c'è nessun tipo di distinzione, è possibile anche per le seconde case, non è necessario avere la residenza nell'abitazione. L'unica caratteristica importante è che i mobili devono essere utilizzati per arredare l'abitazione che si ha ristrutturato. Mm-hmm. Quindi prima bisogna agevolare, avere l'agevolazione del 36%, oggi 50%, e o comunque prima aver iniziato i lavori per questa ristrutturazione e fare il bonifico entro fine anno, e poi acquistare il mobile o il grande elettrodomestico. Ecco, un'ultima precisazione che le chiedo di fare, De Stefani, perché a me sembrava scontata, in realtà poi ho capito anche recentemente parlando con delle persone, e queste conversazioni non avevano nulla a che fare con Salvadanaio, che c'è un equivoco di fondo. Molti ritengono che questo incentivo fiscale venga restituito all'acquirente o appunto al proprietario di una casa che fa questi lavori in cash, in contanti. In realtà no, avviene attraverso un abbattimento delle tasse da pagare ogni anno. Sì, esattamente. Quindi la compensazione fiscale. Esatto, sì, ultimamente lo Stato dà solamente contributi di carattere fiscale, cioè devi pagare determinate tasse, te ne faccio pagare meno perché hai l'incentivo. Quindi si tratta esclusivamente di una detrazione fiscale dall'IRPEF che va ripartita in 10 anni. Supponiamo che spenda 10.000 euro, quindi l'importo massimo per l'acquisto dei mobili, questi 10.000 euro sono detraibili al 50%, quindi 5.000 euro posso detrarre da dichiarazione di redditi di quest'anno e per i prossimi 10 anni 500 euro per singola dichiarazione. Allora, ritorniamo per un attimo con Davide Rossi, direttore generale di AIRES, agli elettrodomestici. Anche qui non abbiamo precisato alcuni punti che sono importanti. Ammettendo di dover rifare il nuovo frigo e la nuova lavatrice, l'importante per avere l'incentivo previsto appunto dalle ultime norme è che questi siano della classe di massima efficienza energetica. Sì, o comunque una classe alta, A più, ci sono anche classi ancora superiori, diciamo deve essere almeno A più. Questo è molto importante perché questi apparecchi hanno delle performance molto superiori, certo, consumano molto meno. E quindi questo coniuga molto bene anche il risparmio fiscale con anche il risparmio energetico. In bolletta questo si vede. Tra l'altro, proprio 2 anni fa è finito il percorso, circa un anno fa, è stato fatto un esercizio molto interessante dall'Enea insieme a CECET, che è l'associazione italiana ed europea dei produttori di questi apparecchi, che noi abbiamo seguito con grande attenzione, che ha fatto una verifica molto attenta sulla effettiva veridicità del contenuto di queste etichette, e sono usciti risultati molto interessanti e molto buoni. Ma ci sono ancora in circolazione, glielo chiedo, presso appunto i retailer che voi rappresentate, che rappresentate appunto elettrodomestici di classe inferiore, perché credo che il mercato ormai stia andando verso la produzione quasi esclusiva della massima efficienza energetica. Dobbiamo pensare che c'è un po' di tutto, il mercato è molto, molto composito, ci sono anche tanti siti online, insomma ci sono tante situazioni dove potrebbero esserci delle confusioni. È molto importante che la classe energetica sia superiore, quindi A più o A superiore. Allora, ricordiamo in ogni caso, che forse non abbiamo precisato a sufficienza, per quello che riguarda appunto l'incentivo legato all'acquisto di nuovi elettrodomestici, c'è la possibilità di risparmiare il 50% della spesa fino a 10.000 euro, per cui lo Stato ci ridà 5.000 euro e non di più, però insomma non è male, penso che ci si possa comprare un buon frigo, una buona lavatrice, no, dottor Rossi? Ma allora, noi stiamo proprio anche su questo ragionando, perché in questi ultimi anni si è assistito un po' a un pensiero che la gente fa, dice ma insomma funziona, io me lo tengo finché non sarà devastato. In verità quello che c'è dentro questi apparecchi comprati 10 anni fa e oggi è completamente diverso, le tecnologie sono migliorate tantissimo e si risparmia non solo in termini energetici ma anche per il consumo d'acqua, per il consumo di detersivo, i cibi si conservano di più e più a lungo, quindi si butta via meno roba, insomma conviene a mio avviso, adesso faccio un po' di spot però in questi momenti serve, conviene fare un piccolo investimento su questo, se poi lo Stato ci incentiva le due cose si uniscono, in questi tempi è importante pensare a tutto. L'importante è che lo Stato adesso si impegni a cambiare la modalità di pagamento appunto di questi elettrodomestici, se no non possiamo appunto utilizzare l'incentivo. Posso aggiungere una piccolissima cosa? Noi siamo i primi a pensare a tutte le possibili scappatoie che qualcuno, perché siamo un po' anche un paese ogni tanto purtroppo va detto un po' di furbi, quindi però questo non deve, come dire, autorizzarci a fare delle misure draconiane che sono così difficili da applicare. Allora troviamo tutti i paletti necessari per impedire abusi, furberie, cose strane, ma ce la possiamo fare, ormai la tecnologia ce lo consente, noi possiamo, ripeto, tracciare tutto, controllare tutto, infatti, quindi non è che siamo in un mondo in cui tutto girava col contante, adesso c'è il limite poi dei 1.000 euro naturalmente per gli acquisti, ci sono tantissime modalità per verificare che effettivamente però voglio dire anche lì una lavatrice uno se la porta a casa anche con 600-700 euro, per cui perché non permettere anche di utilizzare il contante per quell'acquisto, voglio dire, poi con lo scontrino la fattura magari si può rendere ugualmente tracciabile questa operazione commerciale, per cui ecco noi tutto possiamo fare per far contenta l'agenzia delle entrate e il consumatore, però quindi... diciamo adesso senza parlare a favore del contante, la carta di credito, il bancomat, un pagamento tracciabile con questi strumenti mi sembra più che accettabile. Ritorniamo ai nostri ascoltatori, che era in attesa da un po', Renato dalla provincia, Claudio da Vicenza, poverino, che ho anche annunciato e ancora non l'abbiamo sentito. Claudio, buongiorno. Buongiorno, parlo da Vicenza. Sì. Io ho un problema, no? Perché ho scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate, e aggiornato il 6 giugno 2013, le ristrutturazioni edilizie e le agevolazioni fiscali, no? Sì. E ho trovato dei punti in contraddizione, cioè quando si parla di manutenzione ordinaria, sì, che c'è messo che gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. Gli stessi interventi eseguiti sulle proprietà private non danno diritto ad alcuna agevolazione, però più avanti, quando c'è un riepilogo di tutti gli interventi ammessi alle detrazioni IRPEF, mi citano anche delle attività che sono praticamente, fanno parte della manutenzione ordinaria. Non riesco a capire, per esempio la tinteggiatura degli esterni, non si riesce a capire se è manutenzione ordinaria o straordinaria. Qua mi sembra di capire, non so se ho capito giusto, se io cambio colore, anche solo colore, viene considerata manutenzione straordinaria. Se è quella relativa ad un condominio, mi ricordo male, no. Stefani. Aspetta. Casa singola, sul condominio siamo d'accordo, le parti comuni siamo d'accordo, è una casa singola. Qua, nel riepilogo dell'Agenzia delle Entrate, come ripeto, mi mette sulle singole unità abitative... Mi mette parete esterna, rifacimento anche parziale, modificando materiali e colori, o anche solo i colori. Va bene, Claudio, abbiamo capito, è che non siamo strettamente a linea col tema di stamattina, ma le faccio rispondere ugualmente dal nostro commercialista pittore. Certo. Buongiorno. Stefani, sì. Allora, per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie, sicuramente l'agevolazione è valida per le parti comuni e basta. Può essere che in qualche parte l'Agenzia delle Entrate metta all'interno dei lavori agevolati per le singole unità immobiliari anche dei lavori tipici di manutenzione ordinaria, perché se io ristrutturo la casa e faccio quindi un lavoro importante e successivamente la dipingo e faccio dei lavori di manutenzione chiamata ordinaria, che sarebbero tipicamente ordinari se fossero presi solamente loro a sé stante, ma li inserisco all'interno di una manutenzione straordinaria o di una ristrutturazione, in questo caso anche i lavori di manutenzione ordinaria all'interno appunto dei lavori più ampi sono agevolati al 36/50%. Benissimo, Claudio, speriamo di aver fatto chiarezza. Vado a Raffaele da Milano. Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. La mia domanda è relativa al tipo di ristrutturazioni, nel senso che ho capito che la maggior parte di molti contributi sono legati all'esistenza di una ristrutturazione. Sì. Mi chiedevo se, nel caso specifico, il rifacimento dell'isolamento termico di un solaio potesse essere qualificato come ristrutturazione e quindi da poi la possibilità di usufruire degli incentivi programmati e l'agevolazione. Certo, grazie Raffaele. De Stefani, prego. Sul sì, solaio come siamo messi? Certo, sicuramente rientra nei lavori agevolati al 36%, ma ricordiamo una cosa in più. Per beneficiare del 36/50%, in base a una circolare del 2001, che è la numero 13 del 2001, sono agevolati anche la messa in sicurezza di impianti elettrici o idraulici insicuri, come ad esempio la riparazione di una presa malfunzionante oppure anche la sostituzione di un tubo del gas. In questo caso beneficio del 36/50%, una volta ottenuta questa agevolazione posso andare ad acquistare il mobile che mi serve per l'abitazione ristrutturata. Per ristrutturazione sembra un lavoro importante, però in realtà ci sono molti lavori che non obbligano ad una spesa rilevante che possono darmi questa detrazione del 36/50%, che è condizione necessaria per l'acquisto dei mobili. Ecco, Davide Rossi, volevo ritornare un attimo con lei per commentare un altro aspetto. I retailer, appunto, degli elettrodomestici, gli specializzati, chiaramente sono i rivenditori di lavatrici, come dicevamo, frigoriferi, lavapiatti e quant'altro, ma forse attraverso di voi passano anche le rivendite di caldaie, condizionatori o no? Alcune certamente sì. No, quindi sarete proprio grandi protagonisti anche del non è indifferente, insomma, questa cosa, no, perché mi immagino anche da qui a poco la partenza forse di campagne di comunicazione rilevanti. Assolutamente sì, questa è una delle cose che faremo. Ne faremo una come associazione, naturalmente, più istituzionale, un po' normale, insomma, come si fa sempre in queste situazioni. Ma poi sono sicuro che ognuno a casa propria farà delle proprie campagne, delle proprie iniziative. Non ci aspettiamo magari adesso che i ragazzi che sono nei punti vendita sappiano tutto relativamente all'incentivo fiscale, però insomma magari un'informazione su questo sarà necessaria anche da parte vostra, no Rossi? Assolutamente, lo abbiamo fatto mediamente tutte le volte in cui ci sono state delle situazioni di grande dialogo con il pubblico. Cito l'esempio del digitale terrestre, siamo stati i protagonisti, se vogliamo, dell'informazione al pubblico, oltre alle campagne, diciamo, di Stato su questo tema. Abbiamo aiutato la gente, lo faremo anche questa volta. Certo, no, stavo pensando adesso che anche se si nega la ristrutturazione di un'abitazione, magari qualcuno si aspetta di pagare il nuovo frigorifero, la nuova lavatrice a rate, ma non credo che la modalità di pagamento a rate, Rossi, forse ancora anche in questo caso i provvedimenti non sono chiari, possano beneficiare dell'incentivo fiscale. Ma direi di sì, assolutamente. Sì. Ma allora dunque, mediamente parliamo di credito al consumo, certo. Quindi questo è già stato fatto in precedenti situazioni, è un tema che ci pone sullo stesso piano con tutti gli altri, con Federlegno e con gli altri protagonisti, diciamo, di questa campagna di incentivazione. Ci vedremo, ci coordineremo anche con loro, ma penso non ci siano assolutamente dubbi, perché il consumatore effettua in quel momento l'acquisto, e l'acquisto lo fa l'operatore di credito al consumo, quindi effettivamente c'è ancora più certezza pagato, che l'acquisto viene fatto e pagato in quella fase. De Stefani, devo andare in pausa, ma magari una precisazione su questo vale la pena farlo? Certo, certamente, sì. Dopo ne parliamo eventualmente. Benissimo. No, allora ecco, per quanto riguarda, c'è una circolare della Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte che prevede, ancora del 2009, che prevede che in caso di utilizzo di una finanziaria per i pagamenti l'agevolazione spetta, quindi l'importante è che la finanziaria faccia un bonifico con tutti i dati previsti dalla normativa. Quindi è la società del credito al consumo che deve trasmettere appunto i dati sull'avvenuto acquisto. Eccoci ritrovati in diretta ancora sugli incentivi fiscali. Per rendere più bella la nostra abitazione ce ne sono tanti, è anche effettivamente difficile orientarsi. C'è un ascoltatore, per esempio, che su Facebook, Daniele, ci scrive: devo ristrutturare completamente casa, infissi, pavimenti, impianti, cappotto, elettrodomestici e mobili. So che i bonus non sono cumulabili, ecco anche questo aspetto, magari andiamo poi anche De Stefani ai tetti di spesa, ma si possono richiedere gli incentivi al 65% per alcuni lavori, al 50% per altri. Cosa devo fare? Devo fare i conti complessivi e richiedere un solo tipo di bonus? Che suggerimento per razionalizzare i suoi lavori possiamo dare al nostro ascoltatore De Stefani? Sì, una domanda molto interessante di cui abbiamo trattato diverse volte nel quotidiano. Allora, bisogna stare molto attenti, perché se si inizia con un'agevolazione per lo stesso intervento non si può passare successivamente all'altra agevolazione. Quindi, considerando che l'incentivo per il risparmio energetico qualificato scade a fine anno, dovrebbe scadere a fine anno, se inizio a fare i lavori e a fare i bonifici parlanti con indicando quindi nella causale, ecco, di pagamento. Bravo, ecco, perché anche sulla causale ci sono molte domande, quindi andiamo a chiarirla subito. Allora, per quanto riguarda la causale di pagamento, è necessario indicare sia per il 36%/50 che per il 55%, oggi 65%, il codice fiscale del soggetto che fa il bonifico, il codice fiscale o partita IVA dell'impresa che ha effettuato i lavori, oltre che le due leggi agevolative, quindi per quanto riguarda quella del 36% l'articolo 16 bis del TUIR, mentre per l'altra è la legge 296 del 2006. Ecco, se inizio a fare i pagamenti per il 55/65% e a fine anno non ce la faccio a terminare i pagamenti bonifici, non posso poi per i pagamenti che farò nel 2014 beneficiare di quello che mi rimane, quindi del 36%. Certo che, come dire, il suggerimento è di poter pagare anche in via anticipata quanto più possibile alla persona a cui si è commissionato il lavoro, all'impresa a cui si è appaltato il lavoro, poi quello che rimane chiaramente beneficerà di una riduzione dell'incentivo, però intanto si è ottenuta già indietro una bella cifra in prospettiva. 800 24 00 24, continuate ancora ad intervenire se volete in diretta. Andiamo ad Andrea da Verona, che saluta. Andrea, buongiorno. Andrea? Sì, buongiorno. Ci dica. Buongiorno a tutti. Volevo sapere se i bonus e gli incentivi valgono anche per i capannoni tipo logistica e se parzialmente per gli uffici. Certo, Andrea, la ringrazio. Allora, dal solaio De Stefani andiamo adesso al capannone industriale o magazzini. Allora, per quanto riguarda la normativa del risparmio energetico, la detrazione può spettare anche per le imprese, per le aziende, anche le società di capitali che hanno un capannone, un ufficio, quindi categoria A10 ad esempio per gli uffici. È importante che questi beni strumentali, questi immobili, siano strumentali per l'attività, strumentali nel senso che vengono utilizzati direttamente dall'impresa che ne è proprietaria. Quindi qualora si volessero mettere questi imprenditori dei frigo in capannone, perché naturalmente un po' di bevande fresche sono utili, certo, Rossi dice sono assolutamente indispensabili. Allora io parlavo della normativa sul risparmio energetico, quindi certo. 55-65%, e quindi non c'è l'agevolazione per quanto riguarda i mobili e i grandi elettrodomestici per loro, perché sarebbe necessario avere quella del 36-50% prima dell'acquisto dei mobili. Senta un po', De Stefani, perché siccome lei, come sa, l'hanno scambiata un po' per il nostro esperto di lavori in casa, ma d'altronde è così competente anche su questo che i nostri ascoltatori ne approfittano, ci chiedono, molti ascoltatori devono sostituire a quanto pare le tapparelle delle proprie finestre. Sono in tanti che ci stanno scrivendo, ma è un piccolo lavoro che mi pare di capire sia totalmente disgiunto da lavori appunto di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. La sostituzione della tapparella può beneficiare di uno dei tanti incentivi di stamattina? Allora, viene fatto prima la sostituzione dell'infisso, è possibile anche sostituire le tapparelle e beneficiare del bonus del 65%. Se ristrutturo gli infissi, ci chiede Tina, posso avere gli incentivi sul divano? Quindi ha aperto una pratica di un lavoro appunto straordinario in casa. Ci può legare anche quello per l'acquisto appunto di un pezzo nuovo dell'arredamento, De Stefani? Se si rinuncia al bonus del 65% del risparmio energetico, ma si chiede per questa sostituzione il 50%, quindi si rientra nell'ambito della ristrutturazione in generale, diciamola, sicuramente sì, abbiamo il bonus. Ah, quindi deve praticamente scollegare i due lavori? Sì, in pratica noi abbiamo tre agevolazioni, risparmio energetico, ristrutturazione e mobili. Sì. Per avere quello dei mobili devo prima aver ristrutturato, quindi il secondo incentivo, devo beneficiare del bonus del 50%, anche se avrebbe diritto, lei sta sostituendo gli infissi e quindi avrebbe diritto al 65% volendo. Però quindi, deve fare due calcoli e capire quello che... se non ha ristrutturato, ha fatto solamente gli infissi, quella non è una ristrutturazione? Allora, per la sostituzione degli infissi possiamo rientrare sia nel bonus del risparmio energetico sia nel bonus della ristrutturazione, non c'è nessuna differenza. Se lei poi vuole comprare i mobili, forse gli conviene beneficiare del 36/50% per le ristrutturazioni e poi comprare i mobili. Mamma mia, è già che c'è comprare un frigorifero e una lavastoviglie, dice Rossi, naturalmente. Che mal di testa che mi ha fatto venire, De Stefani, con quest'ultima domanda. Sembrava così banale, invece non è vero. Insomma, come dire, le situazioni sono molto più semplici quando gli interventi sono più corposi, a quanto pare. Per un micro intervento, una finestra nuova e un divano, qua ci andiamo invece a, come dire, ad infilare in un tunnel dal quale è difficile uscire. Ce la facciamo a fare un'ultima domanda? Sentirei... Ah, Renato da Bergamo, perché mi incuriosiva... Quando si termina la costruzione di una nuova abitazione, Renato, lei vuole cominciare un'altra ristrutturazione di questa stessa casa? Renato? Pronto, salve. Rapidissimo, perché stiamo chiudendo. Sì, niente, io ho costruito un'abitazione nuova e, come credo molti, mi sto chiedendo, ma terminata la costruzione di una nuova abitazione, è possibile aprire una pratica di ristrutturazione o di riqualificazione? La vuole già modificare, bonus. Renato, Esatto, è possibile usufruire? Se sì, magari ci sono dei termini che devono passare. De Stefani, in 20 secondi, sì. È una bella domanda, nel senso che è possibile formalmente, sicuramente, perché la norma delle ristrutturazioni del 36%, ma anche per quella che riguarda i mobili, è valida solamente per le ristrutturazioni, però potrebbe essere elusiva, un'operazione un po' elusiva, e quindi potrebbe essere controllata dall'Agenzia delle Entrate. Benissimo. Un po' attenti a fare questo. Grazie a Luca De Stefani, grazie a Davide Rossi per essere stati con noi. Ci ritorneremo sicuramente su questi temi per chiarire un po' i termini di questi bonus. A domani, buona giornata a tutti.